piano e nel silente ricordo di ragazzi maltrattati sulle valle di noie di servizi sociali da donne pazze che li maltrattano come figli matti di altri matti e poi fanno giostra di mattatoio un macello di anime mentre primari gridano e urlano che bello e farmaci giù farmaci ci rendono crocifissi e uno tanto un farmaco che ci aiuta non serve più di tanto. Viole tuonano nel silente ricordo di ragazzi maltrattati sulla valle di noie di servizi sociali, drammi con cui accordano strade vari, fiabe decadute come diventati adulti dentro distorti di sogni di rari dove c'erano pastelli ora pianti di anime venduti a santi per denari, rari geni spossati a di fu nesto di fiamma e fabula e intreccio di una corda a cappio sulla trave dell'anima, futuro incerto se ti vendi è certo e certo certo certo se vuoi ti fanno famoso ad un certo conto di vita certo certo. Aghi si spingono in vene per scrivere opera maestra, bimbi il mondo molesta, la psichiatria uccide, il mondo li detesta, poi li cannibalizza in una festa e voilà, via destino di pazzo ragazzo fuori dalla siepe d'infanzia, in fuera col mondo in vena, fuori dalla siepe d'infanzia, in fuera col mondo in vena. Le tuonano nel silente ricordo di ragazzi maltrattati sulla valle di noie di servizi sociali, drammi con cui accordano strade vari, fiabe decadute come diventati adulti dentro distorti sogni di rari dove c'erano pastelli ora pianti di anime venduti a sé per denari, rari geni spossati al di funesto di fiamma e fabula intreccio di un corpo cappio alla trave dell'anima, futuro incerto, futuro incerto, futuro incerto di bimbi cannibalizzati e venduti a isole della passione di Troie. Aghi si spingono in vene per scrivere opera maestra, bimbi il mondo molestia, la psichiatria li uccide, il mondo li detesta e poi li cannibalizza in una festa e voilà, via destino di pazzo ragazzo fuori dalla siepe d'infanzia in fuera col mondo in vena, fuori dalla siepe d'infanzia in fuera col mondo in vena e voilà, cannibalizzati al lì di festa.